Un confronto partito con il piede giusto, secondo tutti i partecipanti, quello di ieri tra imprenditori e sindacati per il rinnovo del modello contrattuale. Una condivisione sul metodo utilizzato sin qui per l'avvio del dialogo. Per il merito si dovrà aspettare il prossimo incontro programmato per mercoledì 18 giugno. Partiremo da subito dal cuore del problema, ossia dall'aspetto contrattuale, ha spiegato il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Il rapporto tra il contratto nazionale e il contratto aziendale. Quindi per il momento bene, poi chiaramente verificheremo nel merito quali saranno le reali possibilità di andare avanti. L'obiettivo, ha detto ancora la Marcegaglia, è di chiudere entro il 30 settembre. Sul modello contrattuale, ha aggiunto il leader della CGIL Epifani, sarà un confronto duro. Naturalmente la CGIL va al confronto per verificare tutte le condizioni per arrivare a un accordo, ma non dirà mai sì a un accordo qualunque, perché c'è un grande problema che riguarda i diritti e la condizione di reddito dei lavoratori nel nostro paese. Di ottimo inizio ha parlato Angeletti, Will, che ha auspicato tempi brevi per la chiusura della trattativa. Puntiamo ad un'intesa entro settembre, ha aggiunto Bonanni CISL, perché vogliamo godere degli interventi strutturali di detassazione dei premi di produttività promessi dal governo. Vincenzo Miglietta, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.